Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. È la seconda parte di Eclettica, seconda parte che va in onda più o meno fra le 19.30 e le 20, quando la prima invece va in onda nei 30 minuti precedenti. E così tutte le sere, fra lunedì e il venerdì, con voi Giulio Caperdoni, che ha aperto questa seconda parte con gli italiani The Mojo Matics, Down My Spine era il titolo del pezzo, mentre la prima si era chiusa con l'accoppiata Friars, Happy è il titolo del pezzo da parte del 18enne londinese, e poi The Whitsundays con It Must Be Me. Ora invece, per quanto riguarda il prossimo pezzo, il prossimo gruppo, devo farvi una domanda. Avete visto Little Miss Sunshine? Ne avete ascoltata la colonna sonora? Avete guardato i nomi di chi ci partecipava? Ecco, uno di questi nomi era quello dei Devochka, indie band statunitense che sta per uscire con un esordio che possiamo considerare quasi major, visto che la Anti, ovvero sia l'Epitaph, è Mad and Faithful Telling. Questo è il titolo dell'album, dal quale vado ad estrarre Transliterator. Thank you. us away from a toxic nightmare. But I knew you wouldn't listen, so I took the liberty of pouring water from the lake in all your drinking glasses. This is why we should hate kids. C'è una bella storia che mi piace raccontare, ed è quella di Bernardo Valli, che quando era giovane riuscì finalmente a ottenere una intervista con il dittatore del Portogallo, che si chiamava Salazar. E mentre aspettava nell'anticamera, un vecchio segretario, sai, di quei portoghesi discendenti dall'infante Enrique, duri, eleganti, gli dice: «Anche lei è venuto a intervistare il presidente per attaccarlo?» Bernardo si schiva, l'altro lo guarda fisso, gli punta un dito in faccia e dice: «Lei se lo ricordi, il presidente sta difendendo il Portogallo dal suo futuro. Capisci? I militari birmani fanno lo stesso. La Birmania è retta da un regime spaventoso di militari orribili e torturatori che io ho sempre condannato. Ti ho raccontato quella scena drammatica di quando, sulla strada per Kentung, mi sono imbattuto in una squadra di giovani dissidenti, malati, che erano stati messi ai lavori forzati. Per cui non è che non mi sono commosso, impressionato. La cosa interessante è che, ormai da 20-30 anni, la comunità internazionale, la comunità europea, le Nazioni Unite, gli americani, ha fatto di tutto perché questo regime cambiasse, diventasse democratico. Per giunta c'è un personaggio straordinario a capo del movimento democratico, Aung San Suu Kyi, alla quale con le solite manovre politico-opportuniste è stato dato il premio Nobel per la pace. È una donna stupenda, coraggiosissima, figlia dell'eroe della guerra di indipendenza birmana contro i giapponesi. Una grande eroina con il padre assassinato, come al solito. Allora, la contrapposizione è fra quegli assassini militari da una parte e dall'altra questa silfide, da anni agli arresti domiciliari. Questo era ancora La fine è il mio inizio, di Tiziano Terzani. Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel parasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al tuo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico folclorista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava. Sto leggendo Tiziano Terzani che dialoga con il figlio Folco. Vi sto facendo ascoltare gli estratti dal film dei Simpson e vi sto facendo ascoltare anche tanta musica, brani che già conoscete e brani che non conoscete, brani che rappresentano delle novità per le playlist di Eclettica, per esempio come quello che sta per arrivare, o brani che non sono novità come quelli che ci siamo ascoltati, per esempio gli Offlaga Disco Pax con Ventrale, prima ancora The Helio Sequence con Keep Your Eyes Ahead. Il brano che ci stiamo per ascoltare non è a tutti gli effetti una novità, ma lo è nella versione che sta per partire. Infatti questa è una versione di Paper Planes da parte di Maya, intitolata Paper Planes Holy Fuck Remix. Infatti è il remix del gruppo canadese che fra l'altro compare da qualche settimana anche con un suo pezzo e probabilmente anche nella settimana in corso ricomparirà con quel pezzo. Quindi Maya, remixata dagli Holy Fuck. Bene, questa è la storia come la si vede. Ma cosa c'è dietro alla storia? Ci sono gli interessi delle grandi società petrolifere che aspettano di entrare nel paese, perché dalla Birmania passa il petrolio. E ci sono i miliardi dei giapponesi che vogliono fare lo sviluppo, con alberghi a 5 stelle, strade, battelli che corrono sul lago Inle e l'aeroporto ampliato per portarci turisti. E se domani, sotto pressioni occidentali, questo regime, come avverrà, cadrà, e la signora Aung San Suu Kyi prenderà il potere, la Birmania diventerà come la Thailandia. Le troie, i bordelli, il profitto, tum, tum, tum. Marlboro, Coca-Cola, Blue Jeans. Allora, la domanda di uno che non è ideologico, che raggiunge la mia età e si guarda intorno è: dov'è la soluzione? Cosa ti auspichi? Che vincono i militari? No, come puoi? Ti auspichi che vinca lei? Vince lei. E la Birmania è finita in pochi mesi. Arrivano i grattacieli di cemento. E allora, Folco, che si fa? Lo senti il problema? Da che parte stai? Questo era ancora La fine è il mio inizio, di Tiziano Terzani. Lost in the

Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 15, volume numero 3. Indice: Say Hi, Fuck Buttons, Sick Alps, Friars, The Wit Sundays, The Mojo Matics, The Vodka, The Helio Sequence, Offlaga Disco Pax, Maya, Stephen Malkmus and the Jigs. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.